Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e vi ringrazio di essere in nostra compagnia. Oggi in regia la parte tecnica è tornato Giorgio Mattei, mentre in redazione, sempre Laura Vanossi, andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Noduli tiroidei, vediamoci chiaro. Anche l'uomo si fa bello. Donna in attesa sulla bilancia. Tiroide, ci siamo occupati più volte di questa ghiandola così carina, assomiglia ad una farfalla, così importante, è una sorta di regista del nostro metabolismo, e lo facciamo nuovamente nella puntata di oggi in cui vogliamo affrontare un disturbo molto comune e in crescita, i noduli tiroidei. Solitamente sono formazioni benigne, ma naturalmente vanno controllati. Insomma, per essere certi della loro natura è opportuno vederci chiare, ed è quello che ci aiuteranno a fare i nostri esperti che sono in linea con noi e che voglio subito salutare, il professor Aldo Pinchera. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore di endocrinologia e direttore della divisione di endocrinologia all'azienda ospedaliera Università Pisana, ma in linea con noi abbiamo sempre da Pisa il professor Paolo Miccoli, direttore del Dipartimento di Chirurgia presso l'Università Pisana. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, professor Pinchera, io inizierei da lei. Cosa sono i noduli? Partiamo proprio da una definizione semplice che ci aiuti in qualche modo a farcene un'idea. Bene, cominciamo subito a dire che la parola nodulo indica una formazione a carattere di un nodulo, che può essere più grande o più piccolo, può essere di diversa consistenza, ma soprattutto di diversa natura. In linea generale noi possiamo distinguere, cosa grosso modo che è quello che interessa le persone, è che il nodulo benigno sono la larga maggioranza, e da quelli che invece sono dei tumori non benigni, cioè maligni. Ma nell'ambito delle formazioni benigne poi si tratta di manifestazioni che hanno un carattere nodulare, ma sono diversi, ci sono le cisti, ci sono le forme involutive, ci sono le forme infiammatorie, e quindi è tutta una famiglia di diverse alterazioni che poi hanno una conformazione nodulare. Ma noi abbiamo il modo per poter distinguere sia la loro natura sia anche di prevedere quello che si verifica nel corso del tempo. Quindi come si comporteranno? 800 24 0024, questo è il nostro numero verde attivo. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Professor Miccoli, secondo alcune stime una persona su due sviluppa nel corso della propria vita un nodulo tiroideo, anche piccolissimo, quasi impercettibile. Però negli ultimi anni questa evenienza è diventata sempre più frequente. Ma c'è un reale aumento del fenomeno o si tratta solo di un'impennata della diagnosi dovuta anche alla sempre maggiore diffusione dell'ecografia, un esame che magari noi facciamo per altre ragioni e che poi porta a diagnosticare la presenza di un nodulo? Ma sì, senz'altro è questa seconda evenienza che determina questo apparente aumento della malattia nodulare tiroidea. In effetti l'ecografia oggi è un esame estremamente diffuso, non solo, ma essendo la popolazione femminile la più colpita dal fenomeno, tutte le donne che si recano giustamente e correttamente a fare un'ecografia del seno finiscono per fare anche un'ecografia della tiroide, e allora quei noduli che non sarebbero stati evidenti se non molti anni più tardi, quando si fossero resi evidenti, palpabili o addirittura visibili, vengono invece visti dall'ecografia. Lei consideri che anche noduli di mezzo centimetro possono essere facilmente diagnosticati in un'ecografia. Ovviamente al momento in cui il nodulo viene evidenziato si rende necessaria ed auspicabile una sua tipizzazione, cioè certo, dobbiamo capire di che natura sarà questo nodulo, e quindi la diagnosi andrà avanti con le varie modalità. Ma certamente anche gli uomini che vanno a farsi un'ecografia delle carotidi, sicuramente se hanno un nodulo tiroideo nel corso di quella stessa ecografia questo verrà evidenziato. Professor Pinchera, il professor Miccoli l'ha in parte accennato, ma volevo essere certa di aver capito bene. A volte sono piccolissimi e li notiamo solo attraverso l'ecografia, a volte sono più evidenti, e quindi noi in teoria potremmo vederli anche occhio nudo, osservando magari con attenzione il nostro collo o facendo un'autopalpazione un po' simile a quella che noi donne facciamo per il seno? Ma io o sono leggende metropolitane? prima appunto di quella introduzione dell'ecografia di cui parlava il professor Miccoli, nel passato è sempre stato questo il modo in cui venivano identificati i noduli. In primo la visione, e cioè dire che molto spesso si guardava allo specchio e si vedeva che c'era una protuberanza a carattere nodulare, e questo era il modo come veniva identificato. Altre volte veniva invece visto da un familiare o da un conoscente, più spesso da uno che non era di mestichezza molto intima con la persona colpita dal nodulo, per il semplice fatto che l'abitudine molto spesso non rende, come dire, facile l'identificazione di qualcosa che c'è da tempo. Ma la palpazione per Dincibacco è uno degli altri sistemi con i quali veniva rilevato. Però perché o la visione o la palpazione possono mettere in evidenza un nodulo, è necessario che ci siano le dimensioni tali da poterlo fare apprezzare. Quello che in larga misura vediamo oggi sono delle dimensioni di noduli i quali sono al di sotto del limite della palpazione. Però va anche detto un problema importante, cioè sì, aumentano perché li vediamo, ma aumentano anche perché l'arco della vita si è allungato moltissimo. Per fortuna. La forma è per dire, no? I noduli aumentano con l'andare dell'età. Se noi prolungassimo la vita, come si dice ora, oltre i 100 anni, le persone senza noduli della tiroide, sia maschi che femmine, sarebbero una sparuta minoranza. Quasi mosche bianche. Professor Pinchera, quasi mosche bianche. Ma volevo chiedere al professor Miccoli, noi abbiamo dei segnali, perché ad esempio mi arrivano già alcuni sms, il bisogno di schiarirsi la voce può essere dovuto alla presenza di un nodulo di grandi dimensioni, mi scrive Aldo? Nel 90% delle volte no. Cioè a dire, ci sono altre cause, però molto spesso questo sintomo, non correlato con il problema del nodulo, viene a mettere in evidenza un nodulo che è del tutto asintomatico. Professor Miccoli, però ci sono degli altri segnali che potrebbero magari farci sospettare che nella nostra tiroide si sono formate dei noduli, o sempre asintomatico? No, è vero che nella maggior parte dei casi il nodulo, specialmente se piccolo, è asintomatico. Se il nodulo è molto voluminoso, certo che dà segno di sé, ma qui bisogna distinguere se la tiroide ha dei noduli, però la sua funzione, vale a dire la produzione di ormoni, è assolutamente normale oppure no. In realtà ci sono anche noduli che invece producono ormone tiroideo in eccesso, e allora se vi è un ipertiroidismo per Bacco, allora sicuramente i sintomi si evidenziano, ma sono sintomi abbastanza drammatici, sono tachicardie importanti, senso di palpitazioni molto evidenti, perdita di peso, intolleranza al calore, insonnia, addirittura fenomeni di diarrea, quindi indubbiamente a questi fenomeni bisogna stare molto attenti, perché sono fenomeni anche rischiosi e l'ipertiroidismo mette in affaticamento il cuore e tutto il resto. Però è pur vero sempre che la stragrande maggioranza dei noduli sono sostanzialmente asintomatici. Allora, se vi è stato diagnosticato un nodulo, più di uno, perché non sempre sono solitari, vero professor Pinchera? A volte si raggruppano, socializzano, ce ne sono più di uno, è vero? Direi che nella maggior parte dei casi i noduli sono multipli. Ecco. E quindi non voglio dire che è l'eccezione, ma è la minoranza del cosiddetto nodulo isolato. Il nodulo isolato, che poi spesso, andando un po' meglio a verificare il quadro ecografico, si vede che ce ne sarà uno più grande e poi ci sono anche dei nodulini più piccoli. Insomma, vengono in compagnia. Allora, chiamateci per raccontarci come li avete scoperti, la terapia che vi è stata prescritta. I nostri esperti, pur non potendo naturalmente fare diagnosi telefoniche, restano a vostra disposizione per i vostri dubbi, le vostre domande. Il numero per mettersi in contatto con noi è 800 24 0024. Due esperti a disposizione. Una mela al giorno.

E torniamo ad affrontare il tema del giorno. Oggi parliamo di noduli tiroidei. In linea con noi abbiamo il professor Pinchero e il professor Miccoli. Professor Miccoli, ci sono delle tiroidi più a rischio di altre? Abbiamo detto sicuramente quelle delle donne. Certo, con quelle delle donne senz'altro, perché la malattia tiroidea in tutte le sue manifestazioni è prevalente nel sesso femminile, sì. Mi spiace, ma è così. È un dato di fatto. Sceglie le migliori. Certo, sceglie le migliori, però le sceglie con un eccesso di entusiasmo, perché è davvero molto prevalente. Quindi il sesso è indubbiamente un fattore di rischio. Altri fattori di rischio però sono legati sia ovviamente alla genetica che al territorio. Ricordiamo che l'Italia è un paese a carenza iodica, c'è poco iodio nelle acque e nel terreno, e quindi il popolo italiano è sottoposto a una carenza di iodio, e questa è un fattore che aumenta molto l'incidenza dei noduli tiroidei. E la genetica certamente, perché alcune di queste malattie vengono trasmesse geneticamente, quindi maggiore attenzione da parte delle donne ma anche degli uomini in quelle famiglie in cui già si siano manifestate patologie tiroidee, in particolare anche tumori tiroidei. Da parte di questo tipo di popolazione l'attenzione dovrà essere maggiore, quindi indubbiamente esistono fattori di rischio, esistono fasce di popolazione più a rischio, e poi, come diceva prima il professor Pinchera, certamente con il progredire dell'età certo. Ovviamente la facilità di insorgenza di noduli tiroidei è maggiore. Non solo rughe ma anche noduli. Teresa ci chiama da Milano, buongiorno Teresa, benvenuta. Sì, buongiorno signora Nicoletta e grazie di avermi chiamato, veramente l'ascolto con molto piacere. Grazie a lei. Ci racconti Teresa, la sua tiroide, come sta? Ma insomma è un periodo non felice questo, evidentemente un po' di problemi legati a molte cose. Comunque, siccome io sto tribulando parecchio con questo collo, perché c'è una non lo so, evidentemente sono andata a fare questa ecografia perché me l'ha consigliato il dentista, in quanto non riuscivo a capire che cosa ci fosse dietro l'orecchio, il collo, perché mi fa male dappertutto, poi sì. Mi sanguinano le gengive. Per cui niente, ho fatto questa ecografia e dice che c'è una tiroide in sede con lobi all'incirca simmetrici a struttura alterata, carattere strumale di tipo nodulare, coinvolgente l'intera tiroide. E poi dice che c'è in sede retroauricolare, sì. Sinistra, si evidenzia un piccolo linfonodo di 5 mm. Allora, per cui questo allora Teresa, il professor Pinchera forse può darle una mano almeno a interpretare il referto. Professore. Dunque, io da quello che ho capito, il problema è che all'esame ecografico si è messo in evidenza il fatto che la tiroide è ingrandita. E quindi l'ingrandimento della tiroide si definisce come gozzo. E questo gozzo, come tutti la maggior parte delle forme di gozzo, ha un carattere più o meno disomogeneo. Ma mi pare anche di avere capito che uno dei motivi della, chiamiamola, preoccupazione o del medico o della signora eccetera, è quel linfonodo retroauricolare. E allora dico subito che questo è un problema che non riguarda la tiroide, certo. E questo è una delle cose che deve mettere assolutamente a togliere dubbi o ansie o cose di questo genere, perché i linfonodi possono essere collegati a problemi della tiroide, ma hanno anche determinati distretti dove si hanno con maggiore probabilità questo tipo di interessamento. A parte poi il fatto, anche dal punto di vista ecografico, i nodi, i linfonodi che possono destare qualche preoccupazione hanno caratteristiche ben specifiche, quindi che orientano subito sulla identificazione del problema. Ciò detto, io devo dire che scinderei i due fatti, uno è la storia del linfonodo e l'altro invece la storia del gozzo. Il gozzo, diciamocelo francamente, di quelle dimensioni, noi non parliamo di migliaia di persone, in Italia siamo nell'ordine delle milioni delle persone, quindi devo dire il fatto di averlo riscontrato è una cosa che non solo è comune, ma che nella massima parte dei casi non deve ingenerare delle preoccupazioni. Si può curare, professore? Per dirci, Bacco, uno è di, innanzitutto occorre distinguere quello che deve essere curato da quello che non deve essere curato, ma soltanto sorvegliato. Quello che è certo è che va prevenuto, e allora in questo senso il problema a cui faceva cenno il professor Micoli è, per dirci, Bacco, è di estrema importanza, cioè dire, la migliore prevenzione è sicuramente quello di introdurre attraverso l'alimentazione le quantità di iodio che sono quelle necessarie per il funzionamento della tiroide. E di qui il famoso concetto di utilizzare il sale iodato, perché questo consente di correggere quella carenza di iodio che in Italia è estremamente diffusa. Va anche detto un problema che credo che si colleghi al discorso che lei faceva prima, molto giusto, dice perché questi noduli possono dare fastidio. Dunque, il problema fondamentale sta nel fatto che ci sono due tipi di fastidi. Uno è quello che è legato alla funzione del nodulo o dei noduli, e cioè dire la quantità di ormone che producono. Nel caso in cui questo eccesso di funzione ci fosse, ed è allora si hanno le classiche forme dell'ipertiroidismo. E l'ipertiroidismo, quella tachicardia, quell'ansia, quell'agitazione di cui si parlava prima, però è una forma nell'ipertiroidismo del nodulo della tiroide diversa da quella classica del base o dell'ipertiroidismo dei soggetti più giovani, eccetera, perché è più subdolo e allora si manifesta di più attraverso manifestazioni del cuore, la cosiddetta fibrillazione atriale. Ma nella maggior parte dei casi i disturbi sono quelli a cui lei stessa aveva accennato prima, cioè fenomeni che sono legati piuttosto alla pressione fisica, e cioè dire se il nodulo è molto grande, se il nodulo è disposto e dislocato in particolari situazioni nei suoi rapporti con la trachea, allora il fastidio è un fastidio come da ingombro, e allora è quello che spesso viene avvertito dal paziente, l'ingombro, il senso di pressione, sì, a livello del corpo. E lì però basta un'ecografia per vederci più chiaro, giusto? Beh, l'ecografia è, come dire, il prolungamento della vista e delle mani. Mi piace. E permette di vedere e sentire quello che è, altrimenti si sentirebbero soltanto nei casi più vistosi. Certo. Io farei un saltino a Roma prima dei mercati, perché ci aspetta Nicoletta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, mi racconti? Allora, la mia omonima. Tutto, sì. Tutte le trasmissioni che fa da quest'ora. Volevo un'informazione a livello generale. Chi usa sostituti del pasto, detti anche integratori alimentari senza fare nomi, e assume quantità di iodio che loro dicono vantaggiosi, favorevoli, aiutano a dimagrire e tutto quanto. Volevo sapere se potevano essere nocive per la tiroide. Grazie Nicoletta, bella domanda che giro al professor Micoli, se riusciamo a darla rapidamente, perché poi andiamo ai mercati. Professore. Sì, dunque, direi che in linea di principio non dovrebbe mai contenere una quantità di iodio che possa essere eccessiva, perché questa potrebbe scatenare una crisi addirittura tireotossica se assunti per lungo tempo e con contenuti superiori alla norma. Certamente io sarei molto cauto, come faceva cenno prima il professor Pinchera, l'assunzione di sale iodato è la forma migliore, più fisiologica e più anche quantitativamente corretta per correggere la carenza iodica che è caratteristica del territorio italiano. Sì. Sarei molto molto cauto nell'assunzione di prodotti che contengono iodio in grosse quantità e che promettono dei dimagrimenti, ma che sono dimagrimenti che forse si possono anche in parte realizzare, ma a costo di rischi e di possibili disturbi che sicuramente eccedono i vantaggi che se ne ricava. Quindi essere estremamente diffidenti verso quei prodotti che vengono propagandati come prodotti favorenti il dimagrimento attraverso contenuti iodici. Sarei molto molto cauto nell'assunzione, o addirittura cercherei di evitarli. Perché il prezzo che paghiamo è molto potrebbe alto. Potrebbe essere molto alto. E Eccoci, siamo tornati insieme. In linea con noi abbiamo il professor Aldo Pinchera, il professor Paolo Miccoli. Oggi parliamo di tiroide, in particolare di noduli alla tiroide. Sappiamo che per la maggior parte dei casi sono di natura benigna, ma come abbiamo detto in apertura, meglio vederci chiaro. Come si fa, professor Pinchera? Quali sono gli esami che ci permettono di capire la natura del nodulo, o meglio parlare in plurale? Lei ha detto che spesso sono più di uno. Bene, innanzitutto bisogna vedere le caratteristiche del nodulo, a parte la questione delle dimensioni, ma dal punto di vista delle caratteristiche proprio intrinseche, i noduli differiscono moltissimo nella consistenza, nella struttura stessa del nodulo, e questo è qualcosa che noi possiamo verificare in primis attraverso l'esame ecografico, che è proprio uno che è un'indicazione che si può avere attraverso la ecografia, che riguarda non solo le dimensioni ma anche la forma e la struttura interna del nodulo, se si tratta di una cisti, se si tratta di un nodulo solido o di un nodulo invece misto, cosiddetto cistico e solido insieme. Ma l'altro elemento a questo punto è un elemento di carattere funzionale. Ora, la scintigrafia tiroidea con il radioisotopo non ha più l'importanza che aveva una volta, però ancora la distinzione cosiddetto caldo e freddo ha il suo valore. Perché? Perché la maggior parte sono freddi, e cioè dire che sono funzionalmente non attivi e quindi non prendono il radioisotopo, ma quelli caldi sono innanzitutto un'indicazione importante che si tratta di forme le quali sono funzionanti e quindi generalmente o quasi sempre benigne. Allora, a questo punto però non basta. L'elemento dirimente importantissimo per studiare la natura del nodulo è la cosiddetta agoaspirazione. Sì. E questo agoaspirazione è l'aspirazione di questi minuti frammenti del tessuto della tiroide, consentono l'esame al microscopio delle cellule che compongono proprio il nodulo. E questo esame citologico ha ormai un carattere fondamentale. È quello che ci consente di distinguere se si tratta di una forma infiammatoria, di una forma involutiva, cioè in sostanza di una forma benigna, sì, rispetto a quella che può essere maligna. Anche nell'ambito del cosiddetto maligno ci sono diverse caratteristiche che consentono anche di verificare il grado della malignità. Ora, sì, questi esami qui sono esami che ci consentono di verificare la natura. Ci sono gli altri esami, tra cui per esempio la TAC, che ci consentono di verificare se questo nodulo è un nodulo che determina o no dei fenomeni compressivi a livello delle strutture del collo, trachea, esofago, eccetera. Quindi io credo che gli strumenti che noi abbiamo sono degli strumenti raffinati, importanti, e che vanno effettivamente utilizzati, però vanno anche utilizzati in un modo intelligente. E certo, professore. In modo da avere il massimo dell'informazione con il minimo dei traumi per il paziente. Grazie, ci chiama da Genova, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Due anni fa mi hanno asportato la tiroide col risultato di un microfocolaio di carcinoma papillare di un millimetro, sì, per cui non ho fatto terapie e continuo a prendere l'autirox. Adesso ho fatto un'ecografia e pare che ci sia una formazione solida isoecogena 10x9x4 mm e probabilmente un residuo ghiandolare. Volevo chiedere che esami devo fare, se devo fare un altro ago aspirato, e che probabilità ci sono che si formino nuovi noduli. Lo chiediamo al professor Miccoli. Professore, che cosa può essere successo? Ed è frequente che rimanga, me le lasci tradurre così, un pezzettino di tiroide? Sì, non è così infrequente di fatto, perché la ghiandola tiroidea è una ghiandola endocrina, quindi ha una definizione, diciamo, tissutale che non è estremamente precisa. Quindi il chirurgo che ha effettuato correttamente una tiroidectomia totale in realtà ha lasciato un piccolo residuo, tanto è vero che gli americani preferiscono sempre definire l'intervento una tiroidectomia quasi totale, perché una totalità assoluta si raggiunge raramente. Quello che è accaduto in questa paziente è che verosimilmente il residuo, che era inizialmente estremamente piccolo, è cresciuto nel tempo. Questo potrebbe essere dovuto forse a un apporto non del tutto sufficiente di ormone tiroideo sostitutivo, il famoso Eutirox. Si cerca di dare un dosaggio abbastanza alto per arrestare la secrezione dell'ormone ipofisario che fa crescere la tiroide. D'altra parte, questo è un'evenienza che si verifica non di frequente, ma si può verificare. La domanda importante che pone la paziente è: devo fare un ago aspirato oppure no? No. Direi di farlo, perché indubbiamente è pur sempre un tessuto tiroideo che può essere a rischio. Peraltro non avrei la benché minima preoccupazione però rispetto al cosiddetto tumore di cui si è operata in precedenza la paziente. Ho detto cosiddetto perché una forma papillare di un millimetro è una forma clinicamente in pratica irrilevante e correttamente non ha fatto radioiodio, non ha fatto terapie. L'importante è ora avere una caratterizzazione di questo residuo tiroideo che pure è presente, adottare l'Eutirox nei dosaggi giusti, cioè cercando di tenere il TSH più basso possibile. Dopodiché direi che il messaggio da trasmettere è di assoluto ottimismo. Bene, andiamo a Pistoia, ci aspetta Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Stefano, siamo qua. Buongiorno, senta, saluto a lei e ai suoi ospiti. Grazie. Allora, per mia moglie, che ora ha 45 anni, 10 anni fa gli è stato diagnosticato un nodulo alla tiroide, 2,5 cm, diciamo, quindi dopo aver fatto tutte le varie, diciamo, indagini, esami, diciamo, l'ago aspirato per due volte di fila ha dato forte sospetto di adenocarcinoma papillifero papillare, ora non mi ricordo bene, sì. Insomma. Come si chiama, professor Pinchera, questo adenocarcinoma papillare papillifero? In Italia molto spesso viene definito papillifero. Sì, ma nel mondo prevale la terminologia papillare, ma è la stessa cosa. Va bene. Allora, Stefano, ok, l'ago aspirato ha evidenziato questo. E ha poi evidenziato questo. A quel punto allora è stato, diciamo, chiesto l'intervento. È stato fatto tra l'altro a Livorno, sempre, diciamo, conosco i signori perché sono della zona. Sì. E ma diciamo niente, è stata tolta tutta la tiroide e a questo punto il risultato dell'istologia, insomma del citologico, non ha evidenziato niente, diciamo così. Ecco, io volevo un po' sapere come può succedere, ecco, che per due volte di fila, certo meglio così, intendiamoci. Certo, però giustamente, capita. Allora, può succedere che durante, diciamo, un ago aspirato si possa trovare al limite un qualcosa che dà un sospetto forte in quel modo lì, diciamo. Professor Pinchera, vuole rispondere lei? Ma io credo che l'ha detto molto bene il signore, e cioè dire, lui ha detto che nell'esame citologico è stato emesso un referto di sospetto di carcinoma papillare. Sì. E difatti la questione del sospetto è importante, perché il sospetto significa che ci siano degli indici nella citologia, cioè dire nella forma delle cellule che sono state asportate dall'ago, che possono richiamare alcune caratteristiche che sono proprie del tumore maligno. Ma richiamano, e quindi non parlano di tumore o carcinoma papillare, ma di sospetto. E in questi casi, devo dire che è una minoranza di casi, conviene sempre fare l'intervento chirurgico per il semplice fatto che l'unico modo per accertarlo è proprio attraverso l'esame istologico definitivo. Quindi il sospetto, nella linea che chiamo nelle grandi casistiche, contiene sempre un 5% di casi nei quali il sospetto è stato emesso e poi non viene confermato all'atto operatorio. Però quelle caratteristiche sono tali che suggeriscono l'intervento, di correre il rischio di non esaminarlo dal punto di vista definitivo. 824-0024, siamo tornati, parliamo di noduli. Professor Miccoli, quando è il caso di operare, di intervenire? Solo se il nodulo è di natura maligna? No, certamente no. Se il nodulo è di natura maligna, l'intervento chirurgico si impone, ma ci sono tante altre condizioni in cui si impone ugualmente l'intervento. Sì. Intanto un nodulo anche di natura benigna, anche senza alterazioni funzionali della tiroide, uno o più noduli possono raggiungere delle dimensioni ed un volume tale da dare dei fenomeni e dei sintomi da occupazione di spazio, sì, deviazione tracheale, compressione sull'esofago, tutti fenomeni che diminuiscono fortemente la qualità della vita, che hanno dei rischi evolutivi, e in questi casi la tiroide deve essere asportata, quindi necessità della chirurgia. Ma c'è un margine anche di discrezionalità, però, in cui l'intervento può essere molto utile anche in quelle forme nodulari che sono accompagnate, come accennava prima il professor Pinchera, a un'iperfunzione. Certo. Quindi alcune forme di Basedow traggono ottimi risultati da un intervento chirurgico, alcuni noduli o gozzi tossici, cioè che secernono un eccesso di ormoni tiroidei, possono e anzi devono essere asportati, perché sicuramente migliorano molto la qualità della vita del paziente. Quindi non solo chirurgia per i tumori maligni, ma chirurgia anche per molti altri casi di patologia benigna. E adesso la chirurgia diventa sempre più raffinata e meno invasiva, più sicura. Sì. Beh, sulla sicurezza certamente è importante intendersi, non esiste una chirurgia che dia garanzie di sicurezza al 100%. Lo sapevo che mi avrebbe risposto così. È una risposta di tipo cautelativo. Certo, professore. Però sarebbe giusto anche essere più precisi per i nostri ascoltatori, ed allora voglio essere più preciso. La ringrazio. Le complicanze più frequenti in chirurgia tiroidea sono pur sempre riconducibili a un 2-3% dei casi, e faccio riferimento per esempio alla diminuzione di funzione delle ghiandole paratiroidi, quelle che regolano il metabolismo del calcio, o ad abbassamenti di voce dovuti a danni al nervo laringeo ricorrente che innerva le corde vocali. Entrambi queste complicanze sono di un'incidenza così contenuta che ci portano a definire effettivamente la chirurgia tiroidea come una chirurgia sicura, e di questo siamo profondamente convinti. Una chirurgia certamente delicata, ma una chirurgia che in mani esperte dà dei risultati importanti. È soprattutto importante aver ridotto molto l'invasività di questa chirurgia, come lei accennava, perché oggi c'è la possibilità di fare interventi cosiddetti mini invasivi con delle incisioni che non superano il centimetro e mezzo e due centimetri, operando con degli endoscopi, vale a dire con delle telecamere, usando delle tecnologie di bisturi ad ultrasuoni che riducono sicuramente la necessità di avere accessi ampi. Ecco, un messaggio da trasmettere ai nostri ascoltatori, ma direi a maggior ragione alle nostre ascoltatrici, tanto più se in età giovane, è che quegli ampi tagli sul collo, di cui ancora vediamo qualche cicatrice nella popolazione, sono destinati sempre di più ad essere soltanto un ricordo lontano. Grazie professor Miccoli. Andrei a Daniela che ci chiama da Roma. Buongiorno Daniela. Buongiorno professore, io volevo sapere da lei, sono decenni che mi sono stati scoperti i noduli tiroidei, mano a mano andando avanti con gli anni sono aumentati sempre di più, e mi è consigliato il mio medico di asportare la tiroide perché mi è venuta anche un'aritmia al cuore. Sì. Io volevo sapere da lei se asportando questa tiroide, cioè le cose arrivano bene, però gli volevo anche dire che gli esami a volte vanno molto bene della tiroide, e a volte c'è un super lavoro, cioè ipertiroidismo. Allora, io sono indecisa se far rispondere il professor Pinchera e il professor Miccoli, decidete voi chi risponde. Fa parte del mestiere del medico. E il professor Pinchera. Senta una cosa, sì, il problema è questo, cioè dire che se c'è l'eccesso di funzione della tiroide non c'è dubbio che è obbligatoria la terapia. Allora a questo punto, una volta identificato il concetto della obbligatorietà della terapia, si tratta di identificare qual è la modalità più idonea per correggere l'eccesso di funzione. C'è un eccesso di funzione che indubbiamente può essere corretto e con le compresse di antitiroideo, che sia il metimazolo, che sia il propizirocine. E queste sono indubbiamente estremamente efficaci. Il problema pratico non è tanto nell'ottenere un, come dire, arresto dell'eccesso di funzione, quanto è quello di assicurare che questo blocco dell'iperfunzione abbia una durata adeguata. Ora, nelle forme che non sono nodulari, la cura medica può avere un effetto a lungo termine anche facendo un ciclo terapeutico sufficientemente lungo, perché ci sono delle fasi accessionali e poi delle fasi di remissione. Ma nelle forme nodulari la terapia con farmacologica, cioè dire con le compresse, gli antitiroidei è sicuramente importante per impedire che ci sia l'eccesso degli ormoni tiroidei e quindi l'effetto a livello cardiaco e quindi la produzione di elementi che favoriscono la aritmia. Ma è anche vero che nelle forme nodulari la terapia antitiroidea deve avere un carattere definitivo. Per essere definitivo noi abbiamo due strade: A, l'intervento chirurgico, sì. B, invece la terapia con lo iodio radioattivo. Quindi, ora, in linea generale, proprio in questi casi, e probabilmente si sono verificati nel corso degli anni, la forma nodulare, una volta che uno ha escluso che ci siano delle forme di natura tumorale, la terapia con radio iodio è una terapia estremamente efficace. E quindi lì, diciamo, si tratta di identificare se ci sono o meno fattori di rischio per l'intervento chirurgico, ma c'è la questione di scegliere Le due opzioni definitive, e si tratta di una scelta che deve essere fatta naturalmente, diciamo, dal medico, dal dottore, certo, ma anche dal paziente, o meglio dalla paziente. Io ringrazio il professor Pinchera e il professor Miccoli che ci hanno aiutato a fare chiarezza. Buona giornata a voi e buon lavoro. Sentiamoci presto. Grazie. Grazie a lei, Nicoletta. Grazie e arrivederci. E adesso voltiamo pagina per parlare della pandemia da virus H1N1. In linea con noi per un aggiornamento della situazione il professor Ferruccio Fazio, vice ministro della Salute. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore, l'epidemia della nuova influenza sta arrivando anche in Italia e sono previsti ben 4 milioni di casi entro marzo. Professore, qual è il vostro piano? Parliamo di vaccini. Questi 4 milioni sono appunto nel caso da noi previsto di vaccinare, diciamo, entro la fine dell'anno i servizi essenziali, cioè medici, infermieri, pompieri, polizia e le categorie a rischio e in particolare persone non oltre 65 anni che abbiano malattie croniche, obesità, asma o comunque delle situazioni per cui ci può essere il rischio di che la malattia possa colpire in maniera più grave. Ecco, quindi se questo avviene, poi se noi procediamo all'inizio dell'anno a una vaccinazione della popolazione scolastica, dovremmo riuscire a contenere lo sviluppo dell'epidemia. Professore, però tranquillizza leggere che l'incidenza di mortalità dell'influenza A è più bassa della normale influenza stagionale, è così? Sì. Sì, sì, circa un quinto, noi parliamo dello 0,4 per mille contro il 2 per mille della stagionale, quindi questo è sicuramente una cosa positiva e al momento la malattia si presenta in forma lieve, in effetti. Tempo di vacanze, professore, quindi di viaggi. Giovani che tra l'altro sono la fascia più a rischio si spostano, ma ci sono motivi, anche solo precauzionali, per consigliare di evitare o limitare i viaggi, escludendo magari alcune zone? No, ma di fatto siamo in fase 6, la fase 6 è quella in cui non c'è più contenimento, ma in cui l'obiettivo è quello di limitare il danno alle persone dato dalla malattia, quindi nessun governo prevede limitazioni di viaggi, non dico che dobbiamo arrivare a quanto alcuni stanno proponendo, cioè le feste dell'influenza per evitare... Sì, questo, beh, la logica di questo, che non è certo una cosa che noi stiamo proponendo, ma la logica di questo è dire in questo momento è molto leggera, potrebbe solo peggiorare, prendiamocela così siamo immunizzati, no? Sulla base di quello che è successo nel 1918, quando chi ha preso l'influenza nella prima fase poi non era immunizzato per la seconda fase, che è quella che è stata più cattiva, più aggressiva. Adesso non è che stiamo dicendo questo, ma sicuramente in questa fase non è il caso di prendere delle applicazioni di questo genere, semplicemente di curarsi se questa influenza arriva, però sappiamo poi che passa rapidamente. Professor Fazio, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci. E per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.